E buonasera a tutti, questo era Tiziano Ferro, mentre voi state ascoltando I colori dell'anima in questo lunedì 17 novembre in compagnia di Barbara, buonasera a tutti. Buonasera Barbara e in mia compagnia Rosanna. Buonasera, benvenuti quindi sulle onde di Radio Alma 101.9. Stasera c'è un'accoppiata diversa dal solito, appunto Barbara Rosanna. Di solito avete o Barbara Cristina o Anna Maria Rosanna, invece stasera abbiamo mischiato un po' le carte. Però intanto Cristina ci sta ascoltando dall'Italia Ciao. e la salutiamo tanto tanto. Ciao Cristina, ciao. Allora, speriamo tu stia bene, naturalmente tu insieme ai tuoi, ovviamente, e speriamo anche di avere un tuo segno, se ti è possibile, ma se non puoi non fa niente, noi sappiamo che sei con noi anche a distanza. Allora, quindi lunedì 17 novembre, l'aria sta diventando veramente fresca, ci avviciniamo quasi all'inverno, però insomma. Nonostante il tempo alle volte sia grigio, piovoso, ma insomma non possiamo dire proprio che abbiamo avuto molto freddo. Tutto sommato anche questo autunno finora è stato Molto mite. abbastanza, sì, mite proprio. Allora, vogliamo ricordare qualche dato della nostra radio, il nostro telefono, per esempio? Sì, allora il nostro numero, se ci volete chiamare, è il 0, se siete a Bruxelles, il 02 345 2656. E se chiamate dall'estero aggiungete il 0032, quindi ripeto 0032 02 345 2656. Allora, invece, se volete inviarci una mail, i colori dell'anima, chiocciola, radioalma.eu, i colori dell'anima, tutto attaccato, chiocciola, radioalma.eu. Allora, sì. E ci trovate anche su Facebook, ovviamente. Ovviamente, come ci devono cercare? Radio Alma, ci trovano su Radio Alma. Cercano Radio Alma, Facebook ci trovano. Va bene, io siccome sono una delle poche, dei pochi esseri umani che non ha Facebook, devo sempre chiedere queste cose, sono poco pratica. vabbè, fa niente, nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto, infatti. Allora, Barbara, di cosa vogliamo parlare questa sera? Allora, oggi abbiamo pensato di parlare dei corsi online gratuiti che stanno, c'è veramente un boom adesso, devo dire, cioè, più e più persone fanno corsi online. È una cosa molto bella perché tante università di tanti paesi offrono corsi gratuiti online, tipo un corso di 5-6 settimane, dove alla fine poi si riceve anche un diploma, un certificato, diciamo, se si fanno i lavori, richiesti, ovviamente. Ma è una cosa molto molto bella, quindi parleremo di questo tema oggi. Va bene, allora ne parleremo, anche perché poi tu ci spiegherai un po', visto che ne hai avuto esperienza, insomma a noi piace parlare così di argomenti interessanti, ma se poi ce ne parla qualcuno che magari lo ha sperimentato, che lo ha vissuto in prima persona, l'argomento diventa comunque più interessante. Quindi stasera sei da una parte conduttrice, ma sei anche in un certo senso ospite di te stessa, diciamo così, va? Sì. Va bene. Allora, io proporrei ancora un brano musicale e poi fra pochi minuti, quindi ritorniamo in studio e appunto affronteremo questo argomento della formazione online, di cui effettivamente non sapevo molto, quindi grazie a te Barbara, penso che questa sera imparerò un po' anch'io. E a fra pochi minuti, mi raccomando, rimanete con noi, con Barbara e Rosanna. Ciao! Ciao. E avrete forse riconosciuto le note di Giacomo Lariccia, che è un musicista molto conosciuto qui a Bruxelles e conosciuto anche nella nostra radio, giusto, Sì, Barbara? diciamo che è il nostro cantautore preferito qui, almeno quello di Cristina, il cantautore preferito di Cristina è mio, perché è anche venuto come ospite già 2 volte, prima quando c'era Monica ancora e una volta poi con me Cristina è venuto e ha cantato. stato live, è stato veramente bello. Mm-hmm, sì, insomma riesce anche appunto a trasmettere queste emozioni in diretta, quindi è veramente un bravo musicista, e se non avete avuto occasione di ascoltarlo in uno dei suoi concerti vi invitiamo a farlo. Allora, parliamo di formazione online, esattamente come si chiama, Barbara? Allora, c'è questo MOOC, allora si chiama MOOC, M-O-O-C, e in inglese vuol dire Massive Open Online Courses, quindi questa cosa è una cosa abbastanza nuova, diciamo, è stata iniziata, è stata un'idea di due professori del MIT, dell'università a Boston, l'università tecnica, e quei due professori hanno cominciato questa idea, hanno cominciato a registrare le loro lezioni, è stato credo nel 2012. Intanto però tante altre università offrono già corsi online, corsi gratuiti, sono tipo delle lezioni registrate a cui ognuno può ascoltare quando vuole, fare pause quando vuole, continuare quando vuole, e poi ci sono anche tipo, dipende poi dal corso, dipende dal tema, ma ci sono temi di economia, di matematica, di fisica, di lettere, di storia, c'è proprio tutto, si può trovare, e poi quindi dipende un po' dal tema, però spesso questi corsi sono combinati con assignments da scrivere, come tipo assignments, Rosanna, che non mi viene la parola. Compiti in casa, compiti, sì, più o meno, un compito per conto proprio. Sì, sì. Grazie. quindi c'è da scrivere dei compiti in casa, da leggere un po' di cose extra, ci sono dei blog, spesso dei wiki in cui si può anche partecipare, ognuno può partecipare per comunicare e discutere sul tema con altri partecipanti di tutto il mondo. Quella è una cosa molto bella, perché poi trovi veramente gente che ha gli stessi interessi. Io diciamo sto qui a Bruxelles e posso discutere con qualcuno in Brasile, in Inghilterra, dove voglio, e tutti abbiamo gli stessi interessi, è una cosa molto bella. Diciamo che ognuno si può scegliere anche i compagni di classe, quindi non solo ma insegnanti. È proprio una classe enorme, poi è un po' complicato, dipende un po', non è che proprio sia una classe nel senso tradizionale, perché non è che conosci ognuno, non ti vedi spesso, però allora io un corso l'ho fatto poco fa, dove hanno voluto che noi ci parliamo su un blog che abbiamo fatto, quindi le persone non le conoscevo in persona, ovviamente neanche una foto, spesso a volte una foto c'era, a volte non c'era, però poi alcune settimane dovevamo anche incontrarci su una cosa tipo Skype, e dovevamo discutere di un tema. Quindi lì, in quel senso che dicevi tu, Rosanna, sì, hai creato la tua classe, perché non è che parli con 30.000 persone allo stesso tempo, ma con tipo 25, e si discute di un tema. Certo. Però dipende dal corso, non ogni corso ti chiede di trovarti su Skype con, sì, sai, sì. Però può succedere. Poi dipende anche, forse, chissà, magari da come eri abituata tu a studiare da piccola, se tendevi a studiare da sola o se studiavi in compagnia. Dici se questo corso è buono per te? No, magari cerchi di riprodurre anche delle situazioni che a te, sì, piacciono, cioè se tu da ragazzina avevi piacere a studiare con i tuoi compagni, magari anche adesso cerchi le persone con cui studiare, con cui confrontarti. Mm-hmm. E probabilmente l'informazione, la formazione dovrebbe essere così, non ha molto senso farla da soli. Sì, anche se secondo me comunque lo studio online è una cosa un po' più individuale, non è la stessa cosa. Beh, di certo. Quindi un po' meno sociale, però comunque è sociale in quel senso che puoi comunque discutere con chi vuoi, quando vuoi, e trovi sempre persone disponibili, però certo, non puoi toccarle. Certo, certo. Va bene, insomma, nel tuo caso è stata una bella esperienza comunque. Nel mio caso è stata una molto bella, sì, un'esperienza ma molto bella. Ma quanto è durata questa esperienza? Allora, per me 6 settimane, questo corso è stato un corso di 6 settimane. Normalmente i corsi online che offrono queste università sono più o meno di 5-6 settimane. Quindi diciamo di breve durata. Sì, mm-hmm. Sì, sì, sì. Sì, ma quindi... a te l'idea, adesso che non conoscevi bene prima, a te ti interesserebbe un corso? Mi potrebbe interessare, sì, sì, perché ovviamente poi il quando fare il corso lo scegli tu, l'orario o no? Sì, quella è stata la cosa più quindi bella. Quindi lo puoi adattare alle tue esigenze, insomma. Giusto. Per chi lavora durante il giorno magari preferirà farlo di sera o durante il fine settimana, o che ne so, magari mentre viaggia in treno, perché brava, si può mettere, che ne so, si può collegare con un iPad, con un computer. Brava, come dici tu, adesso c'è questo, beh, poi vi diciamo un po' di siti, però uno di questi siti molto conosciuti, che dico già velocemente ma poi spiego un po' di più, si chiama Coursera, e Coursera adesso ha creato un'application per il smartphone o per l'iPad, quello che vuoi. Uh-huh. Quindi le persone possono veramente, anche quando stanno in fila al supermercato, possono in teoria ascoltare una lezione o discutere o almeno scrivere un commento su un blog o qualcosa del genere, quindi sì, sì, è veramente una cosa che puoi fare quando vuoi, come hai detto tu, in qualsiasi momento. Sì. Io non so se riuscirei a farlo così, a dirti la verità, nel senso che avrei bisogno di un po' di concentrazione nella fila al supermercato. Penserei più ad innervosirmi, sì, di quanto tempo ci stanno mettendo quelli davanti a me, e non sarei concentrata sulla mia lezione, credo, ma comunque. Probabilmente neanche io, però devo dire, per me, io l'ho fatto sempre di pomeriggio, sera, quando avevo tempo, e... spesso ho stirato allo stesso tempo, ho fatto delle cose, sì, perché sai, ascolti, sì, non certo, è che stirare per esempio è un lavoro molto intellettuale, quindi certo, potevo concentrarmi e allo certo stesso tempo non ho, diciamo, perso tempo, ho fatto altre cose anche, quindi anche questa cosa è carina un po', che puoi fare multitasking. Certo, certo. Va bene, allora, quindi questa era appunto l'introduzione che Barbara ha fatto a questa formazione online, però poi tu darai anche delle informazioni, sì, sì, più, sì, concrete sui vari corsi, soprattutto quelli che sono offerti dalle università italiane. Sì, brava. Mm-hmm. Va bene. Invece il tuo l'hai fatto come in inglese? Sì, l'ho fatto in inglese. Anche le università italiane spesso offrono corsi in inglese, ma non solo. Mm-hmm. Ma io l'ho fatto in inglese, era un'università a Londra che ha offerto questo corso. Ho poi ho fatto un altro di un corso di un'università a Sydney. No, sì, credo era Sydney. Mm-hmm. Quindi veramente trovi università di tutto il mondo, quello è anche bello, conoscere un po'. Ma poi direi, lanciamo un'altra canzone e poi dopo, certo, parliamo ancora un po' dei pro e contra di questi corsi online. Perfetto, perfetto. Allora, fra pochi minuti, mi raccomando, rimanete con noi con I Colori dell'Anima su Radio Alma 101.9. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I Colori dell'Anima. Allora, e questo era Rino Gaetano, naturalmente nella trasmissione I Colori dell'Anima, che come sapete va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22, e in ogni trasmissione quindi parliamo di un argomento che appunto interessa noi o interessa spesso i nostri invitati, ma ovviamente alternando la presentazione dell'argomento con della musica rigorosamente italiana. Allora, formazione online. Barbara, cos'altro vuoi raccontarci? Allora, no, volevo chiedere o dire perché le università hanno l'interesse di offrire un corso del genere, perché è gratuito, quindi non è che guadagnano molto offrendo un corso online di qualche settimana per tutto il mondo, diciamo. Però ci sono le ragioni e sono anche buone. Allora, una ragione è per farsi conoscere, ovviamente, quindi le università offrono questi corsi e ognuno, tipo in Brasile, in Cina, in Europa, dappertutto possiamo partecipare, e così conosciamo un'università in un paese che non conosciamo bene, e conosciamo anche le loro specialistiche, diciamo, quindi questa è già una cosa molto bella. E poi ovviamente è anche una cosa un po' sociale, si offrono questi corsi così anche persone che forse non hanno la possibilità di andare all'università, di pagare tanti soldi per studiare un tema, così possono farlo anche gratuitamente. E comunque, se poi alla fine se si vuole ricevere un certificato, si paga un piccolo prezzo, tipo nel mio caso è stato 35 euro per ricevere un certificato, che non è molto, però è qualcosa almeno. L'idea di corsi online è anche un po' per sviluppare e dare delle incentive alle scuole, alle università di adottare metodi di insegnamento più innovativi e flessibili. Quindi queste università spesso non offrono questi corsi solo per persone all'estero che non vedranno mai probabilmente, ma per esempio la Bocconi in Italia offre questi corsi, sono aperti a tutti, però anche gli studenti della Bocconi possono fare questi corsi a casa invece di poi venire al corso. Quindi li usano anche per i loro studenti. Ho capito. In quel caso, diciamo, il motivo quindi non è di attirare studenti, perché si tratta già di studenti che loro hanno, però è di dare loro la possibilità di studiare in un modo diverso oltre a quello tradizionale. E poi immagino che, io non conosco la Bocconi, ma che la stessa Bocconi si sia, diciamo, modernizzata, nel senso che mi immagino che i corsi siano comunque al passo con i tempi e non siano come forse erano quando studiavo io 25-30 anni fa, ma insomma deve essere cambiato in ogni caso. Ma appunto questo metodo di studio, diciamo, a distanza, e che permette appunto lo scambio con studenti da tutte le parti del mondo, probabilmente è un'offerta che viene fatta quindi a tutti, e appunto, come dici tu, anche agli studenti della stessa università. E poi sì, oltre alla Bocconi, quindi c'è... In Italia c'è la Sapienza a Roma, che offre anche corsi online, gratuiti. La Sapienza è stata la prima università in Italia a offrire un corso online, in effetti tre corsi online, e li ha offerti su una piattaforma che si chiama Coursera, che avevo già menzionato prima. Si scrive Coursera, Coursera, e se guardate online vedrete tanti corsi di tutti i temi, veramente, sono università di tutto il mondo che offrono corsi. E poi ci sono sempre date quando cominciano i corsi, quindi devi un po' vedere se si vuole partecipare attivamente a quel corso per ricevere un diploma, si deve fare il corso nel periodo aperto, però i corsi restano sempre disponibili per, dipende poi, ma per almeno qualche mese. E quindi anche se un corso è già finito e si vuole giusto un po' vedere come sentire un po' il tema, vedere come è fatto, imparare qualcosa senza di ricevere un diploma, si può sempre anche ascoltare le lezioni anche senza partecipare. Diciamo, nella pratica, tu hai fatto questo corso, pensi di metterlo nel tuo curriculum, ad esempio? Sì, nel mio caso quello sì, perché è un corso... non è che lo metto nell'educazione, nell'educazione metto i master, i diplomi che ho fatto, veramente quello lo metterò in cose extra che ho fatto, perché è stato un tema che ho studiato anche all'università, è stata una cosa extra che ho fatto, un approfondimento, un approfondimento, diciamo. Sì. Sì, quello lo sicuramente lo farò, anche perché il certificato lo ricevo di quell'università, quindi è comunque una cosa ufficiale. Ho capito. Senti, una cosa, non so se l'hai detto, ma si richiede a chi segue questo tipo di corsi di avere una certa, un certo grado di studio, cioè chi deve essere perlomeno avere un diploma di una scuola media superiore? No, no. Ognuno può partecipare, non è, non ha importanza il passato. Quindi potrebbe farlo anche qualcuno che ha una scolarità più bassa? Sì, sì, sì. Ma questo vuol dire anche che le lezioni sono fatte, sono abbastanza, diciamo così, comprensibili, o almeno per la tua esperienza? No, dipende, se poi no, perché poi temi ho fatto giusto per interesse, così ho guardato, partecipato, non volevo ricevere il diploma, però ho comunque seguito delle lezioni di un tema di astrofisica, credo, giusto per, lì devo dire che dopo 10 minuti non ho più capito niente quindi alla fine non è che poi ti fai ascolti ogni lezione, però se proprio sei interessata, anche se non sai ancora il tema, ti metti a studiare e puoi farlo. Anche qualcuno che non ha studiato astrofisica potrebbe farlo, però comunque no, il livello non è semplice per ognuno, quindi dipende un po' dal tema comunque. Ho capito. Sì, poi ci sono cose di statistica, cose veramente complicate, e poi ci sono anche livelli, quindi alcune università offrono un corso di statistica di diciamo, per esempio, statistica di introduzione, poi uno più difficile già, quindi si c'è scelta anche per persone che vogliono cominciare con un tema, però non direi che tutti i corsi sono fatti per... ho capito, sì. Vabbè, insomma, bisogna provare. Sì, bisogna provare, è veramente interessante, ci sono tanti temi che poi dici, ah, questo sarebbe interessante, giusto saperne un po', è una cosa bella, molto bella. E poi, allora, siccome ho già parlato di Coursera, c'è pure edX, una edX, anche quel, se vedete su Google trovate edX, e anche quello è una piattaforma che offre tanti corsi di università nel mondo. E in Italia infatti c'è anche un'altra piattaforma che si chiama Uninettuno. Pronuncio bene, spero. Sì. Uninettuno, quindi anche è il primo portale italiano che offre dei corsi MOOC, quindi Massive Open Online Courses, e lì si possono anche scegliere tante tematiche, dalla letteratura alla matematica, economia, geografia, eccetera. E lì la maggior parte dei corsi è offerta in italiano, però ci sono anche alcuni corsi in diverse lingue, quindi in inglese ma anche altre lingue. Ho capito. Sì. Va bene. Certamente poi questo presuppone che le università quindi abbiano anche degli insegnanti di lingua, quindi a questo punto l'università italiana non può permettersi di avere solo insegnanti in lingua italiana, professori, ma deve avere anche professori di lingua straniera. Sì. Quindi è comunque un passo avanti che le nostre università in Italia devono fare per questo tipo di insegnamento. Oggigiorno però direi comunque che per essere un professore all'università bisogna anche poter insegnare in inglese almeno, perché spesso i dottorati, il PhD viene fatto in inglese anche, giusto per, anche solo per quello, sì, è importante. Certo. Allora, va bene, io proporrei ancora un brano musicale, sei d'accordo? Sì. E ci ritroviamo quindi fra pochi minuti, siamo quasi agli sgoccioli perché sono già le 21:40, però appunto continueremo a chiacchierare con voi fino alle 22, mi raccomando rimanete sintonizzati, sia che voi stiate ascoltando la radio, sia che siate collegati a internet sulla frequenza di radioalma.eu, e ci ritroviamo quindi fra pochissimo. Oggi dico che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Allora, ed eccoci di nuovo in diretta dopo questo brano musicale e mentre appunto ci avviamo verso la fine della trasmissione di oggi dei Colori dell'Anima, oggi 17 novembre 2014, mentre voi siete in compagnia di Rosanna e Barbara. Stavamo cercando di chiamare Cristina ma non riusciamo e quindi insomma Cristina sappi che ti stiamo pensando, stiamo cercando di telefonarti ma abbiamo qualche difficoltà e quindi insomma se non sentiamo la tua voce in diretta non è perché non vogliamo ma è proprio che tecnicamente non siamo in grado di farlo, ti pensiamo ancora di più proprio perché non riusciamo a metterci in contatto con te. Intanto speriamo che tu possa tornare molto presto dalle nostre parti. Allora io volevo comunque approfittare prima appunto che la trasmissione finisse di dare qualche informazione perché come sapete questo è il semestre italiano della presidenza dell'Unione Europea e personalmente devo dire che non ho sentito grandissime attività che sono state organizzate perlomeno qui a Bruxelles, però adesso avvicinandoci appunto alla fine della presidenza sempre di più sento di iniziative che vengono organizzate e per esempio tra le varie attività vi comunico un concerto che ci sarà, un concerto diciamo di gala che ci sarà il prossimo 5 dicembre presso il Théâtre Royal de la Monnaie, quindi venerdì 5 dicembre alle ore 20, concerto di gala dei solisti veneti diretti da Claudio Scimone ed è un concerto organizzato dall'associazione Femmes d'Europe a beneficio di progetti umanitari. Per avere informazioni sul concerto si può telefonare allo 02 660 5696 oppure mandare una mail a gala@assocfemmes.eu oppure si può andare appunto al sito dell'associazione Femmes d'Europe che è quindi www.assocfemmes.eu e in questo caso quindi si hanno le informazioni di questo concerto. Sarà presente la Sua Maestà la Regina Paola del Belgio. Vi segnalo anche il concerto che ci sarà il 27 novembre, il concerto nell'ambito delle iniziative Francesca Rava. Si tratta di un concerto che raccoglie fondi per le iniziative di aiuti nell'isola di Haiti e questo concerto invece ci sarà il prossimo 27 novembre, quindi la settimana prossima, presso l'Istituto Italiano di Cultura, quindi alla Rue de Livourne 38. E ancora un altro concerto che ci sarà venerdì 28 novembre alle ore 20 presso il Palais de Beaux-Arts e un concerto Gala Puccini 90 Vissi d'Arte. È un concerto in questo caso organizzato dall'Associazione Lucchesi nel Mondo. Quindi insomma abbiamo un sacco di concerti che ci attendono all'orizzonte tra la fine di novembre e dicembre, ma appunto ci sono altre informazioni e comunque per sapere di più potete trovare informazioni al sito dell'Istituto Italiano di Cultura dove quindi ci sono i vari concerti. Oppure appunto come nel mio caso che ho attinto la maggior parte di queste informazioni dalla rivista Il Botteghino che viene appunto diffusa qui tra gli italiani che sono a Bruxelles e che appunto dà molte informazioni non solo sui concerti ma anche su altre attività che ci sono qui e che riguardano gli italiani. Allora Barbara, che dice Cristina? Sei riuscita a sentirla? Sì, però non funziona il numero, mi dispiace tanto, non funziona. D'accordo. La tecnica. Allora Cristina, questo vuol dire che devi tornare tu in diretta qui presto a Radio Alma, mi raccomando, noi ti aspettiamo, ma penso che ti aspettano anche i radioascoltatori della nostra radio. Sì, sicuramente. Dunque, come sapete, le nostre trasmissioni, la nostra trasmissione si chiama I colori dell'anima e le nostre trasmissioni sono solitamente associate ad un colore. Quindi il colore, in questo caso della formazione, a me fa pensare ad un bel azzurro trasparente, un azzurro dove chiunque in questa trasparenza, chiunque può studiare, chiunque, anche chi non ha i mezzi, ovviamente deve avere un minimo di connessione, però al giorno d'oggi è raro che le persone non abbiano un computer anche vecchio. E quindi grazie a questo, magari stando lontanissimo, riesce a seguire dei corsi e a, che ne so, a imparare un certo argomento che magari è stato il suo, la sua curiosità per tanti anni, e non avendo potuto seguire un corso intero all'università decide che un piccolissimo corso, come dicevi tu, di 5-6 settimane forse riesce a farlo. Quindi mi piace questo colore azzurro trasparente, ma non so se tu avessi pensato ad un altro. A me devo dire che mi piace la tua spiegazione del blu trasparente, ma io avevo pensato al verde, non so perché, anche, beh, perché dà un po', diciamo, speranza, poi non devi proprio investire tanti soldi, tante per vedere se ti interessa un tema o no, ma poi è un po', non so come dire, provare un po' qui, un po' lì, quindi per me sarebbe un po' più un verde, però mi piace molto il blu trasparente, quindi va bene, facciamo allora turchese, entro il blu e il verde. Va bene, senti, nelle spiegazioni che hai dato oggi ci sono dei siti web che magari vuoi ridare o dare, che possono essere utili per chi vuole documentarsi su questo tipo di corsi? Allora sì, il sito web, adesso non ho proprio il link esatto, però allora Coursera, io raccomanderei a tutti di guardare su Coursera, quindi Coursera su Google e poi si trova subito, o edX, quindi edX. Sono questi due le piattaforme più conosciute, più grandi, americane, dove però anche la Sapienza, per esempio, o la Bocconi o anche altre università italiane offrono corsi. E poi in Italia c'è, come ho già detto, quella piattaforma UniNettuno, quindi Uni come università, net, quindi NETT e uno, UniNettuno, e anche lì trovate corsi offerte da università, però solo italiane, quindi sarebbero quelli lì i siti. Bene, insomma, si tratta di fare qualche ricerca su internet, probabilmente avere anche l'idea del corso che uno vuole fare. Poi, come dicevi tu, questi corsi sono di vario tipo, di vari argomenti, sono anche in varie lingue, quindi su questi siti italiani li troverete in italiano, ma anche in una lingua straniera se non siete in grado di seguire in italiano. E quindi, insomma, vi invitiamo a seguire questo, a vedere se riuscite a seguire uno di questi corsi. Chi è? Allora, dunque, noi abbiamo ricevuto una telefonata e vediamo se riusciamo a trasmettere la nostra più. Ecco, ci sei. Ecco. Buonasera Maite. Buonasera. Sei arrivata proprio in addirittura d'arrivo della nostra trasmissione di oggi. Sì, lo so. Grazie. Ho avuto dei problemi di telefono, allora ma volevo chiamarvi. Spero che tutto sia andato bene. Vi auguro una buona fine serata. Grazie mille Maite, ci hai fatto proprio una bella sorpresa. Oggi sono in compagnia di Barbara. E appunto abbiamo parlato della formazione universitaria a distanza, lei appunto che ha fatto uno di questi corsi ci ha spiegato un po' come funziona, è stato molto simpatico e anche istruttivo, credo. Guardo di notte l'università i corsi hanno di, non le nuove attività. Ecco, vedi, persone. Vedi, allora anche... Mi sveglio di notte. Va bene, ecco. Senti, grazie mille Maite. Tanti bacioni. Grazie. E saluta i tuoi ascoltatori, eccetera, eccetera. Grazie, quindi un bacio da Maite a tutti i radioascoltatori. Buona serata. Ciao cara. Ciao, ciao. Buonasera. Maite. Ciao, ciao Barbara. Ciao. E noi intanto mi sa che siamo veramente sì, in chiusura. Adesso siamo arrivati proprio alla fine, quindi ridiamo l'appuntamento per lunedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22.